Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di cui ci occuperemo, come già annunciava il nostro GR, avremo ospite il ministro Brunetta per commentare o spiegare le sue affermazioni degli ultimi giorni. Ieri abbiamo dedicato un'intera apertura al tema dei giovani che restano troppo a casa, tema prettamente economico e quindi di carattere anche fiscale, di incentivi, oppure con un aspetto anche culturale. Di questo parleremo con il ministro, così come del dove reperire le risorse per questa operazione, più che operazione, per un atteggiamento nei confronti delle giovani generazioni, di chi deve uscire di casa, di chi ha un primo lavoro, che sia di vantaggio. Ripeto, in Spagna, Francia, Germania, solo per citare i paesi a noi più vicini, questo già avviene con diverse modalità e anche con diversi importi. Insomma, dovremmo poterci riuscire anche noi se continuiamo a essere la settima potenza industriale al mondo. Poi parleremo di borsa, e allora la giornata sta migliorando, è meno 0,1% adesso Piazza Affari, Parigi in positivo più 0,4%, Francoforte anch'essa mezzo punto percentuale di aumento, così come Londra perde solo lo 0,1%. Questa mattina le borse invece andavano male seguendo le borse asiatiche. Hong Kong ha perso il 2,4% e Tokyo l'1,80%, timori, Shanghai, così chiudiamo, ha perso anche il 2,4%, timori in Asia, anche perché siamo praticamente al settimo calo consecutivo, una delle strisce negative più lunghe degli ultimi due anni. Dicevo, timori che la Cina possa revocare alcune delle misure di vantaggio che hanno incentivato l'economia, e soprattutto le preoccupazioni sui prossimi interventi della banca centrale cinese, la banca centrale di Pechino, toccare, stringere sui tassi e sulla liquidità. Questo ha portato il calo delle borse europee, oltre delle borse asiatiche, e le borse europee adesso hanno recuperato grazie a Wall Street che guadagna lo 0,4%. Parleremo quindi anche di borse, poi del settore alimentare, oggi il bilancio diffuso da Federalimentare. Di Ryanair, conferenza stampa, nuove rotte, molto polemico il fondatore di Ryanair con il presidente dell'ENAC Vito Riggio. Alcuni di voi ricorderanno la vicenda che ha portato praticamente a un passo da Ryanair da uscire dalle rotte italiane. Era tutta giocata sui documenti di viaggio, quali documenti di viaggio potessero essere utilizzabili per salire in aereo. Infine, nella seconda ora del programma, ci occuperemo di Simone Cimino. È già stato nostro ospite una volta, molto brevemente. Adesso sembra che l'offerta per rilevare lo stabilimento in Termini Imerese della Fiat, stringere un accordo con la Reva in India, vetture elettriche, ci possa avere qualche sviluppo nel giorno in cui, e quindi iniziamo con le notizie in breve, la Fiat, ahimè, annuncia in maniera abbastanza sorpresa comunque che tutti gli stabilimenti auto della Fiat si fermeranno per due settimane, l'ultima di febbraio e la prima di marzo. Cassa integrazione quindi a Mirafiori, Melfi, Termini Imerese, alla Sevel, a Cassino e a Pomigliano. In totale sono 30.000 lavoratori che verranno coinvolti in queste due settimane di cassa integrazione, dovuta all'andamento degli ordini a gennaio, che dopo il periodo positivo di fine 2009 ha visto drasticamente ridimensionarsi il numero di vetture ordinate a un livello ancora più basso, e questa è la parte che ci preoccupa di più, rispetto a gennaio del 2009. Ecco perché due settimane di impianti fermi, di tutti gli impianti di Fiat Auto fermi. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, sempre in tema di Italia, oggi iniziamo dall'Italia, mercato del lavoro, siamo alla stretta finale per l'avvertenza Alcoa nell'incontro che dovrebbe essere iniziato alle 15.30 al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma. La multinazionale dovrebbe sciogliere le riserve sulle ultime proposte per abbattere i costi energetici nello stabilimento in provincia di Cagliari dell'Alcoa e Porto Vesme, dove ha praticamente 600 dipendenti, ne ha altri 120 in quello di Porto Marghera. In tutto il gruppo Alcoa in Italia 2500 dipendenti. Dicevo, per quello che riguarda Porto Vesme, La proposta arrivata dal governo e dalla regione Sardegna è di avere un'elettricità a basso prezzo, più competitiva, accettando però che possa essere staccata nei momenti di maggior picco. In questo modo si recupererebbe comunque competitività, visto che avreste costi fissi energetici molto più bassi. L'azienda però, prima di entrare nella riunione, ha detto che non è ancora convinta della validità della soluzione adottata dal governo per ridurre i costi dell'elettricità nelle isole. Allarme dei sindacati, ma non abbiamo altri sviluppi oggi. La notizia è stata battuta dall'agenzia ieri in serata per l'ipotesi che il colosso dell'acciaio russo, la Severstal, possa cedere l'italiana Lucchini, acquistata meno di 5 anni fa, storico nome, diciamo, della siderurgia bresciana. La notizia è ancora senza conferme, l'hanno molto ripresa i giornali, i media russi, e fonti vicine al gruppo Severstal ritengono attendibile l'indiscrezione, anche se il gruppo Severstal ha detto che la società non commenta le voci di mercato. E adesso invece veniamo all'economia internazionale, riprendiamo quindi quello che è il percorso classico. Sui titoli, devo dire che, visto che ce li chiedete, Unicredit è il peggiore, meno 2,80, Bulgari meno 2,3, Exor meno 2, Tenaris meno 1,5, Unipol meno 1,1, come Fiat e la Popolare di Milano. Il migliore è l'Automatica, più 3,20, ST Microelectronics più 1,6, Geox più 1,2. Atlantia più 1% come Finmeccanica, Eni più 0,80 come UbiBanca. Petrolio sempre in calo, ma insomma sempre stabile intorno ai $74,2 al barile. E ancora, per quello che riguarda i dati sull'economia internazionale, citiamo le stime del Fondo Monetario. Fondo Monetario Internazionale che ha migliorato le stime di tutta la crescita economica a livello mondiale, nel senso che il PIL mondiale dovrebbe crescere del 3,9% nel 2010, del 4,3% nel 2011, anche in America la crescita sarà del 2,7% quest'anno, più debole l'area euro, non si andrà oltre in media l'1%, l'anno prossimo più 1,6%. La Cina, vabbè, lo sapevamo già, comunque viene confermato un più 10% quest'anno e più 9,7%, quasi per darci il contentino, l'anno prossimo. Le stime sono complessivamente migliorate in tutta l'area euro dello 0,7%, cioè 0,7 punti in più rispetto all'anno ottobre dell'anno scorso. Anche l'Italia ha visto un miglioramento, ci si attendeva una crescita dello 0,8% quest'anno, il Fondo Monetario dice no, sarà dell'1%, dell'1,3% nel 2011. In questo modo, va detto, allineandosi alle previsioni, penso al Centro Studi Confindustria, che già stimò una crescita all'1% qualche settimana fa per quello che riguarda 2010. E ancora è intervenuto su questo, sulla ripresa, anche il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi. Oggi ha ricevuto i principali banchieri italiani, ha detto che ci sono segnali di una ripresa della produzione, ma sono ancora fragili. Le banche devono continuare a rafforzare il patrimonio e entro i primi sei mesi del 2010 le banche italiane attueranno i programmi di azione in materia di remunerazione bonus dei vertici, realizzati secondo i nuovi principi internazionali. Praticamente quindi il vertice di oggi tra il governatore e i sei principali gruppi bancari ha portato anche una conferma che le nuove norme sui bonus arriveranno entro metà del 2010. Ancora due dati, poi ne parleremo nella seconda ora. Commercio a novembre, vendite invariate, meno 1,3% invece rispetto a novembre del 2008, l'andamento del commercio italiano. Soffre anche la grande distribuzione, meno 1,2% rispetto a un anno prima e meno 1,4% nei piccoli negozi. Ne parleremo più avanti quando parleremo anche di industria alimentare. E poi il dato di oggi, anticipatore, sintetico, si chiama Flash, indagine rapida del Centro Studi Confindustria. A gennaio c'è un recupero della produzione industriale dello 0,9% rispetto a dicembre, ma si è ancora, diciamo, sotto meno 20% rispetto ai livelli pre-crisi nella produzione industriale. Finora il recupero ha fatto recuperare un 6%, cioè su 26 punti che si era sotto, 6 sono stati recuperati, però mancano ancora 20 punti percentuali quanto a livello di produzione industriale per tornare diciamo all'aprile del 2008. Allora, primo tema, bamboccioni, non bamboccioni, soprattutto tutte le polemiche, le opinioni, i commenti che sono intervenuti dopo le due dichiarazioni abbastanza ravvicinate del ministro Brunetta in tema proprio di figli che restano troppo a casa, figli che non vogliono uscire dalla casa, aiuti per i figli ad uscire di casa. Percorriamo al volo la vicenda. Domenica scorsa il ministro per la funzione pubblica Brunetta ha proposto di agire sulle pensioni di anzianità e destinare i soldi per aiutare i giovani a uscire di casa, da lì la cifra dei 500 euro che è stata commentata da molti in questi due giorni. Già lo scorso 17 gennaio, lo ricorderete, e quindi un po' più di una settimana fa, lo stesso ministro Brunetta aveva come provocazione proposto per legge di obbligare i giovani a uscire di casa a 18 anni. In realtà era stata una presa di posizione che era arrivata dopo, commentando la sentenza del Tribunale di Bergamo, lo ricordavamo anche ieri, che ha obbligato un artigiano trentino separato e con figlia che ha 32 anni a pagare gli alimenti alla figlia, che è iscritta da 8 anni fuori corso alla facoltà di filosofia, si desse una mossa, perché lui aveva smesso di pagare il mantenimento della figlia a 29 anni perché non si decideva a laurearsi. Commentando questa frase c'era stata così la provocazione di proporre una legge per obbligare i figli a uscire di casa a 18 anni. Comunque, siccome poi ci sono state molte interpretazioni, ringrazio per averci raggiunto in collegamento proprio il ministro per la funzione pubblica Renato Brunetta. Ministro, buonasera. Buonasera a voi. Vedete, i politici, se poi sono anche professori, sono una gran brutta razza. I giornalisti però anche di più. Allora, di fronte alla prima notazione, quella di quel magistrato che aveva condannato quei genitori a pagare gli alimenti alla loro figlioletta di 32 anni da 10 anni fuori corso all'università, io ho detto, ma se avessi la bacchetta magica, per scherzo farei una legge per mandare a casa tutti i giovani dopo i 18 anni. Mi rendo conto però, avevo detto anche in quell'occasione, che il problema non è tanto dei giovani, ma è dei padri. E io ho insistito su questo. Il problema è l'egoismo dei padri. L'egoismo dei padri che si manifesta in tanti modi. Egoismo, vedi l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. L'egoismo dei padri che vuol dire pensioni finte di invalidità, vuol dire finte o vere pensioni di anzianità, vuol dire pensioni d'oro, cioè vuol dire quello che ci imputa l'Europa, che spendiamo troppo per le pensioni, ma non le pensioni per le vecchiette o i vecchini, quelli che se la sono guadagnata, ma per chi la pensione la considera un optional in più. E spendendo troppo per pensioni, questo ho detto per cattive pensioni, non ci restano più i soldi per spendere per i nostri giovani. Difatti siamo il paese in Europa che spende di meno per aiutare i giovani o a trovare un lavoro o a trovare una casa o a formarsi al meglio, quindi borse di studio, prestiti d'onore. E io ho detto, fuor di ipocrisia, siccome si parla da tempo di patto intergenerazionale, eccetera, eccetera, cosa vuol dire fare un patto intergenerazionale? Vuol dire spendere di meno per il cattivo welfare dei padri e spendere di più per interventi buoni per i figli. Quali interventi buoni per i figli? Ho detto borse di studio, prestiti d'onore testuale, ho detto incentivi per la casa, detassazione, incentivi per la casa e incentivi per mettersi in proprio, autoimprenditorialità giovanile, per aprire una bottega, eccetera eccetera. Ho detto una cifra, 500 euro potrebbero essere sufficienti per finanziare o questo o questo o questo o quello. Cosa avete scritto voi, gentili categoria dannata giornalisti? Vuole togliere le pensioni per dare il salario di 500 euro ai giovani. Ma così in questo paese non va mica da nessuna parte, però se i giornalisti trattano una persona seria, qual penso di essere, anche competente di mestiere, faccio il professore ordinario di economia del lavoro, insomma, ognuno per carità può dire stupidaggini, tutti noi ne abbiamo dette e ne diciamo, però in questo caso avevo detto delle cose sensate, di buon senso, vere, soprattutto, vere nella letteratura economica, nel dibattito, eccetera, eccetera, che possono far pensare, su cui si può essere d'accordo o meno. Qualcuno potrebbe dire no, per carità, diamo solo i padri e niente i figli, però, come dire, questo è il tema del dibattito, non rendiamolo una macchietta o grottesco tanto per far polemica politica. Allora, a me non piacciono i distinguo, però sottolineo che noi stiamo cercando, Ministro, proprio di sfruttare appieno un tema che è un tema vero. Ieri ne abbiamo parlato con due suoi colleghi come Irene Tinagli e Stefano Zamagni, oggi ci fa piacere avere lei, perché al di là della polemica politica, che non interessa questo programma, ci interessa la parte economico-finanziaria, il tema c'è tutto. E qui vorrei venire proprio ai contenuti, perché io non trovo personalmente, l'abbiamo detto anche ieri, nulla di scandaloso se si ipotizzasse, come avviene in Spagna. In Spagna c'è un contributo per l'affitto di 210 euro al mese per 4 anni per tutti i giovani dai 22 ai 30 anni, in Francia ci sono gli aiuti per gli studenti a pagare l'affitto, si arriva fino a 5.500 euro l'anno. Neanch'io lo ritengo scandaloso. In Germania, in Germania ci sono i Kindergeld, assegni consistenti per le coppie che hanno figli. Allora, ragioniamo concretamente, al di fuori di ogni così polemica politica. Prima domanda. Secondo lei, visto che noi abbiamo in mano dei dati inequivocabili, l'Italia ha i giovani tra i 25 e i 34 anni che nel 64% dei casi vivono con i genitori. In Gran Bretagna sono al 15%, in Germania al 17%, in Francia al 24%, in Spagna al 40%. Quindi c'è un problema italiano, percentuali triple, doppie rispetto alla media europea. E poi c'è una tendenza europea in cui in tutti i paesi, anche quelli più emancipati dal punto di vista dei giovani, si assiste a un ritorno, a un aumento della quota dei figli che restano a casa, o addirittura si chiamano figli boomerang negli Stati Uniti, tornano a casa. Domanda: secondo lei il tema è essenzialmente, e quindi praticamente in maniera totale, economico, e quindi le politiche devono essere incentivo, o c'è anche un problema culturale per cui va bene l'incentivo, ma forse rispetto a 22 anni fa, quando sono uscito di casa io a 18 anni, si sta facendo un passo indietro culturalmente, ammesso che sia un passo indietro? Allora, questa è una bella domanda, seria, e spero di rispondere altrettanto in maniera intelligente e seria. Non siamo adesso, Ministro. Allora, in Italia c'è un problema di cattiva distribuzione del welfare. Spendiamo, lo ripeto, troppo per le pensioni dei padri e dei nonni e troppo poco per i giovani. Questo è il punto nodale, e non è colpa di questo o quel governo, è colpa di fatto di tutti i governi dal dopoguerra ad oggi. Spendiamo troppo per le pensioni di invalidità, magari finte, che hanno anche una funzione clientelare sociale. Spendiamo troppo per le pensioni di anzianità, ancorché si vadano a ridurre. Spendiamo forse troppo per le pensioni d'oro, e ci sono tanti altri argomenti. Spendiamo insomma troppo per le pensioni, e ripeto, non quelle di tanti italiani che se la sono guadagnata a fatica. Ai giovani non diamo praticamente nulla, anzi concentriamo sui giovani, come dice Ichino, ma come hanno detto in tanti, tutte le esigenze di flessibilità sul mercato del lavoro, perché i giovani, oltre che a pagare con il non welfare, pagano con la estrema totale flessibilità, non hanno l'articolo 18 che li protegge, su di loro è concentrata tutta la flessibilità del sistema, perché a loro sono dedicati gli atipici. E le dirò un'altra cosa paradossale che forse in pochi sanno: gli atipici, i lavori atipici, i lavoratori atipici, quasi tutti giovani, pagano i contributi anche loro, pensionistici, ancorché in misura ridotta. Certo. Siccome però non c'è ancora alcun atipico che per ragioni oggettive e generazionali abbia riscosso la sua pensione, vuol dire che questi contributi con sistema a ripartizione vanno da qualche parte. Sa dove vanno? Non vanno mica in un fondo che si accumula per pagare nel futuro le pensioni degli atipici. No, vanno a colmare i disavanzi delle gestioni dei lavoratori dipendenti. Questa non la sapeva nessuno. I contributi di quel 1,5 milioni, 2 milioni, 2,5 milioni di atipici, Coco Pro, eccetera, eccetera, mi pare siano il 17%. Questi contributi, 17-19%, questi contributi vanno a colmare i disavanzi, vale a dire lo squilibrio tra gettito contributivo e spesa pensionistica dei loro padri. Bella questa, eh? No, no, ma il principio mi è chiarissimo. Siccome ho altre tre domande da fare, vorrei rispettare i tempi. Mi dice se, secondo lei, poi arriviamo alla parte economica, c'è un problema anche, mi raccomando, vedo già che chi scrive al 349-238-6666 non è, nessuno ha detto un problema solo culturale, è chiaro che la variabile economica è fondamentale, però per non essere troppo marxisti o marxiani, esiste anche un problema di sovrastruttura culturale? Oppure andiamo avanti con le prossime domande ragionando solo dall'aspetto economico, ministro? Io penso che tanta diseducazione economica o tanto squilibrio economico abbia prodotto anche una assuefazione culturale. In Italia, per esempio, è così. In Italia una metà dei giovani non esce, non se ne va, perché ci sono ragioni economiche, l'altra metà per ragioni, come dire, culturali, perché sta bene a casa. Ma in realtà questa seconda metà è fortemente condizionata da fattori di sedimentazione culturale pregressi. L'altra domanda che lei mi aveva fatto di tipo europeo, è chiaro che la crisi o l'incertezza porta a tirare i remi in barca, cioè porta a ritrovare nella famiglia un punto di approdo. E guardiamo bene, non è questo un male in sé. No. Perché la famiglia è sempre la famiglia, tornare da mamma, da papà, dopo un fallimento, un problema, dopo una delusione, eccetera, eccetera, è un fatto straordinariamente positivo. Il problema è l'obbligatorietà, la necessità, il tornare perché non ce la facciamo più a star fuori, perché abbiamo perso il posto di lavoro. E quindi i ritorni, anche questi vanno esaminati, se sono ritorni culturali, chiamiamoli così, o necessitati. Io credo che se questo è il dato europeo valga la condizione di incertezza dell'economia, pensiamo solo all'ultimo anno e mezzo, ma non solo. Ecco, pertanto il problema c'è tutto. In Italia è più acuito che altrove, per le ragioni del nostro egoismo, della nostra miopia, e sarebbe bene fare dei dibattiti seri, equilibrati, non macchiettistici, ma soprattutto riprodurre le opinioni delle persone per quello che sono e non per farli sembrare altro. No, ma noi ci stiamo provando. Andiamo avanti, infatti, su questa falsariga che trovo assolutamente proficua, lo dico in maniera neutra anche qui, non come giudizio di valore. Allora, fermo restando che lei ha già risposto, perché ieri abbiamo avuto anche oggi molti messaggi che dicevano: ma insomma, se devo andare a abitare in casa con tre persone che mi disturbano, preferisco stare a casa dei miei. Questo è un problema culturale, cioè prima o poi te ne devi uscire da casa dei tuoi. Altra cosa è dire: ce la fai economicamente o no? E qui torno a bomba sulla parte economica. C'è chi ha detto anche ieri, penso a Zamagni e a Irene Tiragli, che c'è un problema di così, potere d'acquisto strutturale, ma negli ultimi 20 anni, cioè rispetto a quando sono uscito di casa io, il potere d'acquisto di chi entra nel mondo del lavoro, del giovane che entra nel mondo del lavoro, è diminuito in termini reali, non in termini nominali, perché con una maggiore flessibilità del lavoro, con un insieme di precarizzazioni, non c'è solo un problema in generale del giovane che ha meno soldi quando inizia a lavorare, ma c'è stato anche un problema relativo, cioè hanno meno soldi di quanti non ne avessi io, e da lì un'ulteriore difficoltà in più. È d'accordo o no su una riduzione del potere d'acquisto? Sul potere d'acquisto non si è tanto d'accordo o meno, ci sono i dati statistici, e i dati statistici ancora una volta dimostrano che il potere d'acquisto dei padri si è mantenuto e aumentato, e il potere d'acquisto dei figli, e cioè delle classi di età giovanili con attività atipiche, e si è diminuito, quindi non è un'opinione, è un dato di fatto. Quindi vuol dire che ancora una volta lo squilibrio che prima era sulla pensione, si dà più come redistribuzione del reddito ai padri che ai figli, ora lo si applica anche alle remunerazioni, perché qui, questo sì, faccio una piccola provocazione, io posso anche accettare da giovane di avere uno stipendio più basso, però voglio più sicurezza, oppure posso accettare di avere meno sicurezza, però voglio uno stipendio più alto, per un semplice ragionamento economico, cioè posso anche accettare la flessibilità, per dirla in termini più chiari, no, tu sei atipico, l'azienda vuol conoscerti, tu fai 2-3 anni di atipicità per conoscerci reciprocamente, benissimo, però almeno pagami di più, cioè compensami il rischio. dal punto di vista economico. Invece no, i giovani atipici sono pagati meno, o di meno, o quasi quasi alla stessa maniera, ma rischiano di più. E questo produce ovviamente non solo una riduzione del potere d'acquisto, ma anche una pressione, chiamiamola così, certo, cioè un effetto incertezza che poi si traduce nei comportamenti. Ma questo gli economisti lo sanno da sempre. Sì. Cioè, si potrebbe tranquillamente proporre un contratto di cambio. Oppure, come secondo me, la proposta di Ichino di irrigidire il contratto del lavoro man mano che si va avanti. È la stessa cosa. Irrigidisci man mano che vai avanti, all'inizio gli paghi un premio della flessibilità. Mm-hmm. Guarda, tu hai il massimo della flessibilità, però ti pago un premio salariale. Certo. Cioè, ci sono vari modi per ragionare in termini corretti. No, ma era importante che, insomma, stabilissimo una volta per tutte, che anche con i dati statistici alla mano, che rispetto a quando ero giovane io, 22 anni fa, avevo 18 anni e uscivo di casa, adesso lo stesso 18enne a parità di lavoro ha un potere d'acquisto più basso, che sia stato l'euro, che probabilmente e meno potere d'acquisto. E questo ce la dice lunga, perché i giovani rimangono a casa. Certo. E veniamo all'ultimo. Ma è questo il punto centrale. Dopodiché io dico, più borse di studio per cui esci per studiare, più prestiti d'onore per cui vuol dire esci, vai a studiare e magari investi in un percorso formativo, eccetera. Oppure un po' di incentivi per aprire bottega, per autoimprenditorialità, eccetera, eccetera, eccetera. E anche, non solo per esempio incentivo per l'affitto, ma per esempio basta con lo scandalo degli affitti in nero e dei taglieggiamenti ai giovani studenti universitari che vengono taglieggiati nelle nostre città universitarie, nobilissime città universitarie, dove gli si fa pagare per un posto in una stanza 500 euro in nero. Tutto in nero, chiaramente. Allora, Ministro, facciamo una cosa, pausa per il meteo, la pubblicità, e poi vorrei, come chiedono anche molti ascoltatori al 349-238-6666, capire le proposte concrete, cioè le proposte le ha già fatte, ma la loro attuazione. E qui dobbiamo parlare di soldi, o di Sky se preferisce, perché sa già dove vado a parare, c'è un ministro che in questo momento gestisce, e come suo ruolo, tutta la disponibilità economica anche del governo. ...17:38, riprendiamo l'intervista con il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta. Il tema dei giovani, e a questo punto, avendo chiarito che la variabile economica è fondamentale, anche se c'è un elemento culturale in questa percentuale altissima e sempre più alta di giovani che restano a casa, e avendo chiarito, lo dico anche a chi scrive al 349-238-6666, che dati statistici alla mano, c'è stata una riduzione del potere d'acquisto reale dei giovani lavoratori rispetto a 20-30 anni fa, e a questo punto che si deve trovare una forma di incentivo come avviene negli altri paesi, Spagna, Germania, Francia, solo per citare quelli più vicini, arriviamo alla domanda sul che fare, per essere così un po' leninisti. Allora, visto che al governo ci siete voi, ministro Brunetta, cioè in un paese che spende 300 miliardi più o meno di euro per la pubblica amministrazione, è possibile che non si riesca a trovare nelle pieghe di bilancio, come si chiama in gergo, quindi senza far saltare le casse dello Stato e i conti pubblici, delle risorse per arrivare ai sostegni che citavo, i 200 euro della Spagna, i 5.000 euro in un anno al massimo della Francia, parliamo di sostegni all'affitto. Insomma, col ministro Tremonti non riuscite a dialogare su questo, come certe coppie che hanno difficoltà di dialogo? Intanto ci sono le competenze. Allora, intanto c'è il Ministero del Lavoro, che è competente per i problemi del lavoro, il Ministero delle politiche giovanili, che è competente per i giovani, e il Ministero di Tremonti, che è competente per l'equilibrio finanziario. Allora, la sua domanda però gliela chiarisco in maniera molto molto molto semplicemente. Noi spendiamo circa 3 punti, se non 4, di PIL in più per le pensioni, avendo tutto sommato una struttura demografico-economica simile a quella di paesi come la Francia e la Germania. Cosa vuol dire? Che noi non siamo strani o particolari per cui dobbiamo spendere di più per le pensioni perché abbiamo più vecchi o altre cose, no, avendo la stessa struttura demografica spendiamo di più per le pensioni. Allora io ho detto, soprattutto per le cattive pensioni, quelle che conosciamo tutti, le sulle finte di invalidità. Basterebbero, guardi, una stretta sulle finte pensioni di invalidità e ci sarebbero le risorse per fare tutte le politiche giovanili degne dell'Europa. E allora perché non si fa? Secondo lei, perché voi avete, come governo avete bloccato anche un, cioè il ministro Tremonti nel caso specifico e la Lega d'accordo ha bloccato ogni riforma, cioè nemmeno tornare alle pensioni della riforma Maroni è stato. Ma guardi, allora c'è un problema, distinguiamo. C'è un problema della crisi. Dentro la crisi, come dire, calma e gesso, occorre che il paese esca prima dalla crisi. Però, come dire, almeno si può ragionare però. Quindi gli ultimi 15 mesi sono stati 15 mesi difficilissimi in cui abbiamo dovuto salvare il paese. E quindi, calma e gesso, non si è potuto ragionare. Adesso che stiamo uscendo dalla crisi, qualche ragionamento lo si può fare. E il ragionamento che faccio io è basta con le finte pensioni di invalidità, per esempio, e il ricavato, in economia si chiama marcatura dell'orecchio, il ricavato di questa lotta agli abusi, alle clientele, a queste forme aberranti di welfare, il ricavato lo si dà ai giovani. Questa è una cosa seria e basterebbe, perché per finte pensioni di invalidità spendiamo... Ma lì c'è uno scambio elettorale, però il ministro lo sa molto meglio di me, cioè le finte pensioni di invalidità... Ma posso dire una cosa, uno scambio elettorale miope, perché... No, sono d'accordo, però c'è, voglio dire, dovrebbe spiegarlo... Un politico coraggioso ha il coraggio di dire queste cose, e io ripeto, io lo dico, e forse per questo, come dire, ricevo tanti insulti, ma ho anche più consenso. Basta con le finte pensioni di invalidità, basta con le pensioni di giovinezza... e parte nel tempo di questo ricavato lo diamo a fare serie politiche giovanili per la casa, per le borse di studio, per i prestiti d'onore, per l'autoimprenditorialità, in maniera tale che diamo la possibilità ai giovani di essere liberi di decidere cosa vogliono fare nella vita e liberi di costruirsi la loro vita. Se fosse eletto sindaco di Venezia potrebbe iniziare anche a livello comunale, per esempio con le giovani coppie di Venezia? Assolutamente sì, i poteri ovviamente di un sindaco sono diversi da quelli che ha un ministro del tesoro o un ministro del welfare, eccetera, eccetera, però un orientamento lo si può, per esempio nella lotta all'abusivismo, certamente. Nell'aiutare i giovani universitari, certamente, che sono tanti. Queste sono le cose serie. A chi le dice, ministro, per concludere, che lei con queste provocazioni qui, insomma, cioè per alcuni versi anche. Un attimo, cito quello che dico io. Dice: Brunetta fa delle provocazioni intellettualmente importanti, interessanti, però le fa più da accademico. Sembra più un accademico, un osservatore esterno, un commentatore che un ministro. Lei cosa risponde? Io ho appena fatto una legge, quella per riformare il lavoro pubblico, non l'aveva fatto nessuno prima, con tanta determinazione e tanta durezza. In questa legge c'è la mobilità, c'è il merito, c'è la trasparenza. Ho fatto un'operazione di trasparenza che non ha avuto l'uguale in Italia, pubblicando i dati di tutto e di tutti, sempre nel settore pubblico. Altro che accademico. Io sono certamente un accademico e ogni tanto si sente qualche difettino, ce l'ho anch'io evidentemente, e quindi qualche idea questa, ce l'ho questa ancora è la notizia in testa. Di questa intervista. Ecco, qualche idea ce l'ho ancora in testa, però dopodiché lavoro dalla mattina alla sera per far diventare queste idee leggi, leggi dello Stato. Veda la mia riforma sulla pubblica amministrazione che sta funzionando a rotta di collo, le mie norme sulla trasparenza. Aver pubblicato tutti i curricula di tutti i dirigenti pubblici, quasi 200.000 curricula, non l'aveva mai fatto prima nessuno. Aver pubblicato le consulenze, aver fatto la lotta all'assenteismo, 40% in meno di assenze, bastone e carota, chi l'aveva fatte queste cose? Altro che annunci, altro che annunci. E questa è la sua risposta a chi la critica per fare la politica degli annunci. Senta, nel salutarci mi dice quando... Così, come idea, lei potrà chiedere a Tremonti, ragioniamo adesso, non di aprire i cordoni della scarsella, così uso un termine che lei conosce, della borsa, ma capire come rimodulare la spesa, per usare un termine più tecnico. Rispondo da economista, quando la sequenza della crescita del reddito triennale sarà più 2, 2, 2. Quindi non è che l'Italia cresca del 2? No, è cresciuta per esempio negli anni di Prodi, è cresciuta 2-2-2 per esempio. Ma che facciamo? Ecco. Richiamiamo Prodi, no? No, negli anni di Prodi, nel senso che in quella congiuntura c'era una crescita sufficiente per poter, come dire, fare la riduzione della pressione fiscale, per esempio. Loro non l'hanno fatta. Però lei citava un elemento a costo quasi zero, cioè se uno va a... No, ma io dico, in generale parlo della riduzione della pressione fiscale, che è l'altro elemento. No, io parlavo dei giovani in parla, questo momento. Di cui si parla. L'altra cosa, dello spostamento delle poste di bilancio, quello ovviamente si può fare, c'è un altro problema in quel caso lì, che quando la congiuntura è negativa, qualsiasi ritocco della distribuzione del reddito produce apprensione sociale. Quindi anche per giuste redistribuzioni occorre avere una prospettiva di crescita. Questo è anche questo, come dire, ce lo insegnano i sacri. Ma diciamo, secondo lei, nella prossima finanziaria, in settembre-ottobre di quest'anno... Io posso solo dirle che, assieme agli altri colleghi competenti, mi batterò per avere politiche giovanili che aiutino i giovani a costruirsi il loro futuro, non appesantendo il bilancio, ma risparmiando da altre parti, cioè da dove si spreca, in particolar modo dagli sprechi del cattivo welfare pensionistico. Noi la reinviteremo quando questa diventerà chiaramente anche una proposta di legge, vedremo se poi i conti lo permetteranno. A proposito, mi scusi, questo io l'ho già fatto. Innalzando l'età di pensionamento delle donne, di vecchiaia, del pubblico impiego e destinando le risorse agli asili nido. L'ho già fatto. E di questo le diamo atto, l'abbiamo anche raccontata. Vedremo se poi si riuscirà a trovare, appunto, fermi restando i vincoli di bilancio, all'interno della spesa complessiva. Io penso che un paese come il nostro... Certo che lì c'è poi il tema delle rendite di posizione elettorale, perché è chiaro che le pensioni di anzianità false producono spesso voti veri. Però insomma lì un paese ha anche, a mio avviso, l'obbligo di scegliere che cosa vuole fare, se vuole puntare al brevissimo tempo oppure investire sul futuro, e lì senza retoriche, fuori di retorica, i giovani sono il futuro. Grazie al Ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione Renato Brunetta. Grazie a voi. E allora la borsa adesso, non vi dico i messaggi che stanno arrivando, spero di averli toccati tutti, o almeno i temi, la maggior parte, al 349-238-6666. La borsa, poi Fiat, o prima di arrivare a Fiat, Ryanair, Fiat, e chi sta avanzando, vorrebbe avanzare un'offerta per lo stabilimento di Termini Imerese per costruire auto elettriche. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa parte del Focus Economia dedicata ai temi di borsa. Non possiamo continuare sul tema e sui temi toccati con il ministro Brunetta poco fa. Due sole precisazioni, probabilmente non diventerò popolare in questo modo, ma insomma la domanda che molti di voi volevano che ponessi, parlate dei costi della politica, delle pensioni dei parlamentari. Allora, abbiamo fatto intere puntate sui costi della politica, abbiamo invitato Sergio Rizzo che assieme a Gian Antonio Stella aveva scritto un libro famosissimo su questo. I costi della politica sono un principio, se volete anche etico, ma visto che si parla poi di manovre che devono avere qualche miliardo, come appunto quelle per i giovani, gli affitti dei giovani, è inutile pensare che questo si possa risolvere con i costi della politica, per cortesia, o con i costi dei parlamentari. Quello è un principio giustissimo, è etico, dare l'esempio per primi, ma non è che da lì arrivino i soldi, e so che su questo molti di voi non la pensano in questo modo, tant'è che passo subito alla borsa. Allora, alla fine ce l'ha fatta anche Milano a chiudere in territorio leggermente positivo, più 0,15%, e meglio Parigi, più 0,7%, Francoforte pure, Londra più 0,3, l'America guadagna mezzo punto percentuale sul Dow Jones, ed è da lì che è arrivato un po' di spinta ai mercati. Euro in calo, anche oggi rischia di scendere sotto quota 1,40, perché è 1,48 in questo momento. Bene l'automatica, più 3,3, STMicroelectronics più 1,9, Pirelli un punto e mezzo come Geox, l'1,3 il rialzo di Finmeccanica e di UbiBanca, l'1,1 quello di Atlantia ed Enel, l'1% quello di Autogrill e Italcementi, ma anche Eni. Campari più 0,90, Mediaset più 0,6 come Terna e Saipem, Mediobanca mezzo punto percentuale di rialzo. Fronte opposto, Unicredit meno 2,2, scende a 2 euro per azione, Bulgari meno 2,1, Exor meno 2,1 anch'essa, Tenaris meno 0,90, Popolare di Milano meno 0,80% come Fiat, A2A meno 0,6 come Unipol. Lo 0,4 lo perde Parmalat, i migliori e i peggiori in assoluto, Crespi peggiore meno 6,2, House building meno 5,80%, investimenti e sviluppo meno 5,70%, Riccia Ginori meno 5%, male anche Stefanel meno 4,4%, il migliore Terni Energia più 19%, Energy Capital più 16%, Pramac più 11%, Coin più 8,5%. Tra l'altro oggi vediamo se riusciamo a raccontare la conferenza stampa anche del numero 1 Stefano Beraldo per annunciare appunto la fusione tra Coin e UPIM. Adesso Livia Zancaner, Radio Colli, Sole 24 Ore. Buonasera Livia. Buonasera. Allora, ce l'hanno fatta le borse a recuperare, Unicredito no. Sì, allora Unicredit ha perso il 2,2% registrando la peggiore performance sul paniere principale. A Milano ha risentito della debolezza dell'intero sistema bancario che era già stato sotto pressione la scorsa settimana. Allora oggi in particolare a indebolire il settore sono stati due fattori. Da una parte la decisione della banca centrale cinese di obbligare le banche a innalzare il coefficiente di riserva obbligatoria e dall'altra il monito arrivato dall'autority finanziaria austriaca che ha praticamente esortato le banche a non pagare troppi dividendi e tenere a riserva il più possibile gli utili per rafforzare il patrimonio, visto che il 2010 sarà ancora un anno difficile. Unicredit quindi è la banca che a Milano ha risentito maggiormente di questi due fattori, anche perché ricordiamo che Unicredit controlla Bank of Austria. Tutto questo mentre si avvicina alla scadenza l'aumento di capitale da 4 miliardi di euro per a fine gennaio. Sono andate male comunque anche altre banche a Milano come BPM che ha perso lo 0,8%. Ancora sui titoli, infatti tu ricordavi anche BPM, abbiamo visto un andamento su Fiat, perché anche di Fiat oggi ci occuperemo in qualche modo, la notizia non bella è appunto la cassa integrazione per 2 settimane di tutti gli stabilimenti Fiat Auto, sono 30.000 lavoratori coinvolti. Ma Telecom poco mossa, più 0,3%. Volevo capire che cosa fosse successo all'automatica, in senso positivo ci mancherebbe, più 3,3%, il titolo a 14,6 euro per azione. Sì, allora le azioni dell'automatica hanno beneficiato in particolare del giudizio di Exam BNP Paribas che ha alzato la raccomandazione sul titolo outperform, ma su delle basi, nel senso che gli analisti sono in attesa di due fattori. Da una parte del lancio del nuovo gioco, del gratta e vince sul modello del Win for Life della concorrente Sisal, e dall'altra appunto il mercato è in attesa della decisione del Consiglio di Stato, che sarebbe in agenda il 9 marzo, del ricorso per la gara su Gratta e Vinci. Quindi secondo gli analisti lo scenario più probabile è che l'automatica rimanga in realtà l'unico operatore in gara, e anche per questo appunto la banca d'affari ha rivisto al rialzo le stime di utile per azione dell'intero gruppo. No, mi sentivi rumoreggiare perché sai che io con i report ho la stessa affinità che hanno, diciamo, che ha un elefante con un topolino, però voglio dire, se c'è qualche elemento di notizia va bene, questo report lo facciamo passare. Fiat, Livia, perché nonostante il dividendo il titolo comunque soffre, meno 0,80% e Exor ancora di più, meno 2,1%? Sì, allora in realtà bisogna dire che verso metà pomeriggio le azioni Fiat hanno tentato di recuperare terreno e hanno virato in territorio positivo sullo scenario del miglioramento delle borse europee e del comparto auto, ma poi hanno chiuso sotto la parità dopo l'annuncio relativo appunto alla chiusura per 2 settimane di tutti gli stabilimenti della divisione auto. Allora ieri il Lingotto ha comunicato i conti che hanno evidenziato una perdita superiore all'attesa, 848 milioni, oggi sono arrivati i vari giudizi degli analisti che in realtà bene o male hanno confermato i giudizi, tranne ad esempio Société Générale che ha alzato la raccomandazione. Per quanto riguarda Exor ha perso oltre il 2%, ma qua in realtà doveva esserci una notizia positiva, nel senso che Fiat ha comunicato la distribuzione del dividendo, infatti, cosa che permetterà quindi a Exor di confermare la cedola dello scorso anno senza intaccare la posizione finanziaria a livello di gruppo. Ma allora perché cala? Cioè, nel senso che è strano, in effetti. Sì, in realtà credo che sia un movimento conseguente a quello della società di cui detiene, appunto, di cui è socio di riferimento, quindi Fiat. Credo che sia un calo conseguente a quello, perché in realtà la notizia comunicata ieri è stata positiva. Sì, voglio dire, per quel poco che ci capisco io di borsa e finanza, quando una società torna a distribuire dividendo come ha fatto Fiat ieri, chi ne ha una quota importante dovrebbe salire in borsa, però... Va bene, non si smette mai di imparare. Grazie a Livia Zancaner, Radio Coro, Il Sole 24 Ore. Nessuna preferenza per Livia, per tutti i colleghi, ma preferenza per tutti i colleghi di Radio Coro. Dico chi scrive. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, e adesso, come già annunciato, ci occupiamo di altri temi. Vedo che molti continuano a scrivere in merito all'intervista con il ministro Brunetta. Alcune notizie in breve però le voglio dare, perché sono uscite proprio in questi minuti, e poi invece ci concentriamo sul settore alimentare da un lato e sulla nuova politica di Ryanair dall'altro. Che una ripresa sia in corso lo dimostra anche la notizia che sto per leggere. Secondo un rapporto della Fondazione Eni, Enrico Mattei, del Monitor Group, gli investimenti dei fondi sovrani, cioè i fondi che sono espressione degli stati sovrani, stanno tornando ai livelli pre-crisi. Nel terzo trimestre del 2009 il numero di operazioni è risultato doppio rispetto al precedente trimestre, con un valore arrivato a 25 miliardi di dollari, da 3 miliardi a 25 miliardi. Non si vedevano valori così appunto dall'inizio della crisi, quindi da settembre-ottobre del 2008. Un protocollo d'intesa che riguarderà soprattutto le piccole e medie imprese, le micro e piccole imprese di Milano, però è importante, con la Banca Popolare di Milano, il Comune di Milano ha firmato un protocollo d'intesa, valore complessivo 100 milioni di euro del plafond. In base a questo protocollo la BPM si impegna a concedere forme di credito agevolato alle micro e piccole imprese. Micro vuol dire quelle con 10 persone e massimo 2 milioni di euro di fatturato, e le piccole quelle con meno di 50 persone e meno di 10 milioni di euro di fatturato. Le vendite al dettaglio, lo ripetiamo visto che voi ce lo chiedete, il dato è di un meno 1,3% rispetto a un anno fa, le vendite a novembre, quindi il commercio a novembre, e invariate invece rispetto a ottobre, un dato abbastanza piattino per non dire stagnante. Ancora diciamo di Coin, bene il titolo in borsa, oggi conferenza stampa di Stefano Beraldo, nostro ospite già altre volte, ministro delegato di Coin, ha detto: grazie all'acquisizione di UPIM il gruppo Coin diventerà il più grande gruppo italiano, puntiamo a portare il fatturato a 2 miliardi di euro in 3 anni. In questo momento è infatti, sommando 1.320 milioni di Coin con i 430 milioni di UPIM, siamo 1.732 milioni. E poi Beraldo ha anche detto: il bilancio 2009 sarà il migliore della nostra storia, e così si spiega appunto anche l'andamento di Coin, che oggi ha guadagnato l'8,5% in borsa. Settori economici, settore alimentare, oggi Federalimentare ha presentato il bilancio dell'industria alimentare del 2009, le previsioni sul 2010, ricordo che insomma è la seconda industria italiana quella alimentare dopo la meccanica, 120 miliardi di fatturato, di cui 20 vanno all'export, per un totale di 6.500 tra piccole e grandi aziende e quasi 500.000 di addetti. Anno di recupero il 2010, come ha precisato il presidente di Federalimentare Gian Domenico Auricchio. In un anno difficile, un anno drammatico dell'economia italiana e non solo italiana, l'industria alimentare ha tenuto. E questo credo che sia dovuto non soltanto alle note doti anticicliche del settore, ma soprattutto alla capacità degli imprenditori e delle imprese alimentari italiane di investire in qualità e sicurezza alimentare e portarla sui mercati del mondo. La produzione industriale alimentare è diminuita nel 2009 di 1,8 punti, che è una cifra significativa, ma se la confrontiamo col resto dell'industria, che è del meno 20%, abbiamo fatto molto meglio. Anche sull'export, l'export la stessa situazione. L'export, nonostante il crollo del mercato statunitense e canadese, che sono due mercati molto importanti sia per i prodotti alimentari sia per il vino, devo dire che perderà nel 2009 intorno al 4% contro un meno 24% dell'industria nel suo complesso. Noi siamo convinti che nel corso del 2010 potranno essere riassorbite sia la diminuzione di 1,8% della produzione sia quella dell'export. Per essere più precisi vuol dire che dovremmo avere un incremento della produzione stimato intorno a 1,6-1,8% che porterebbe a zero, annullerebbe la diminuzione del 2009. La stessa cosa sull'export. Siamo convinti che recupereremo, magari non lo recupereremo tutto nel mercato statunitense e canadese, ma ci sarà sicuramente delle opportunità di andare a vendere i nostri prodotti in alcuni paesi che magari avevamo trascurato negli anni passati. E così il presidente di Federalimentare Gian Domenico Auricchio. Ricordo che comunque l'industria alimentare, pur in un anno difficilissimo, ha retto bene, meno 1,8% la produzione del settore, voglio dire. Ci sono molti settori a partire dalla meccanica che si bacerebbero le mani per avere un meno 1,8, la media in generale è appunto di quasi un meno 20% nella produzione industriale italiana. Per quello che riguarda Ryanair invece, molto polemico oggi in conferenza stampa il fondatore, l'irlandese Michael O'Leary, dopo che ricorderete si è rischiato il blocco di tutti i voli Ryanair, non voleva accettare di utilizzare i documenti d'identità previsti dall'Italia, lo scontro con l'ENAC e con Vitorigio. Dunque, Ryanair ha annunciato 5 nuove rotte dall'Italia, per un totale di 295 rotte da e per l'Italia, 3 nuove rotte da Milano Real Serio, cioè Bergamo Real Serio, scusatemi, e poi una da Torino e una da Treviso, entrambe per Ibiza. In Italia il traffico è cresciuto del 35% nel 2009, il traffico Ryanair. La puntualità, ha sottolineato O'Leary, è del 93%. Gli investimenti in Italia per quest'anno ammonteranno a 1 miliardo e 400 milioni di dollari, quindi 1 miliardo di euro. Non vuole aiuti, Ryanair ha chiesto di abbassare le tasse aeroportuali, ha definito spazzatura l'accusa arrivata dall'Italia secondo cui Ryanair avrebbe ricevuto 190 milioni di euro di aiuti da autorità pubbliche o enti aeroportuali, e ha polemizzato con il presidente dell'ENAC Vitorigio proprio sul braccio di ferro su quali documenti di imbarco richiedere ai passeggeri italiani. We would like to develop a good working relationship with ENAC. We will be Italy's largest airline this year. Vorremmo avere buoni rapporti di lavoro con l'ENAC. Quest'anno diventeremo la prima compagnia aerea in Italia e credo che sia giunto il momento che l'ENAC la finisca con questo comportamento sciocco di inventarsi delle ordinanze con lo scopo di osteggiare Ryanair. L'incontro che abbiamo avuto con ENAC è stato positivo. Noi abbiamo fatto un passo avanti. ENAC ha fatto un passo avanti e questa è la strada giusta. Però i commenti stupidi da parte di Riggio a gennaio, secondo i quali Ryanair voleva chiudere le rotte domestiche perché in perdita, penso siano commenti idioti. Le rotte domestiche in Italia non ci hanno mai fatto perdere denaro e una volta risolta la vicenda dei documenti non ci sono state più difficoltà. Mi piacerebbe che qualcuno chiedesse al signor Riggio spiegazioni su quanto ha detto su Ryanair e sulla volontà di chiudere le rotte nazionali. Penso che Riggio sia un idiota. In Italia, è triste dirlo, al vertice dei sistemi burocratici vengono messi degli idioti. So I think Riggio is an idiot, but you know, in Italy, sadly, at the top of these bureaucracies, you seem to, that's where you put the idiots. E vabbè, Michael O'Leary si assume ogni responsabilità di quello che ha detto. Vito Riggio lo inviteremo. Il commento sui vertici burocratici mi sembra un po' qualunquista. Vorrei vedere in Irlanda che in Italia ci sia un problema di meritocrazia in generale, può essere anche vero, ma comunque massimo spazio anche al presidente dell'ENAC qualora volesse intervenire per farci capire com'è nata sta polemica che oggettivamente nemmeno noi abbiamo capito molto. Ultima notizia che prelude al prossimo e ultimo tema, mi riferisco a Fiat. Volete delle conferme anche su questo? Sì, purtroppo la conferma c'è. Tutti gli stabilimenti della Fiat Auto si fermeranno in Italia 2 settimane, l'ultima di febbraio e la prima di marzo. Cassa integrazione quindi per Mirafiori, Melfi, Termini Imerese, La Sevel, Cassino e Pomigliano, in totale circa 30.000 lavoratori, perché le vendite a gennaio stanno andando male dopo il livello molto buono del 2009. e addirittura più basse le vendite a gennaio, così si legge nel comunicato dell'azienda, rispetto a gennaio dell'anno scorso. E quindi cassa integrazione per 2 settimane. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, mentre la Fiat annuncia 2 settimane di cassa integrazione, come abbiamo appena ricordato, c'è chi vorrebbe rilevare Termini Imerese. Allora, il fondo CAPE, gestito dal finanziere Simone Cimino, su questo fondo ieri si era espresso Sergio Marchionne dicendo: io non ho ricevuto ancora nulla, nessun contatto. Allora, in primo luogo lo ringrazio e saluto appunto Simone Cimino, che è appunto ideatore e amministratore delegato del fondo CAPE, per essere in collegamento con noi. Buonasera, dottor Cimino. Buonasera a voi. È vero che lei con Marchionne non ha mai preso contatti? Certo che è vero. E allora con chi li ha presi? Con chi è competente per un progetto di start-up a Termini Imerese, cioè il Ministero per lo Sviluppo Economico, e in particolare la task force predisposta dal ministro Scajola per ogni progetto che crei occupazione o recupera occupazione a Termini Imerese. Quindi con il ministro Scajola e con il capo dipartimento Giuseppe Tripoli, immagino. Sì, anche. Esatto, con la task force. Infatti la task force è ricevuta il 21 di gennaio, abbiamo presentato il nostro progetto che ha ricevuto un'accoglienza molto favorevole. Come in data odierna ci hanno chiesto un approfondimento da fornire entro il 28, perché il 29 ne faranno un uso per loro in quel tavolo negoziale con Fiat e con i sindacati. E quindi il 29, cioè entro, prima del 29, entro il 28 dovete fornire ulteriori dettagli. Esatto. Ulteriori dettagli. Allora, vediamo di capirci, perché qui c'è uno stabilimento che ha 1400 persone, parla della Fiat, esatto, a Termini Imerese. Esatto. Voi siete un fondo di private equity, esatto, no? E, che lo dico per chi è in ascolto, un fondo di private equity investe in aziende comprandone quote di minoranza oppure quote spesso di maggioranza. O fa start-up, o cioè lancia nuove società. Voi tra l'altro proprio in Sicilia, a Termini Imerese, avete lanciato la Ice Cube, che produce ghiaccio per cocktail o non cocktail, poco importa, e avete lanciato anche un'altra società che è la T-Link, che fa navigazione tra i porti di Termini e Genova Voltri. Per ora non mi sembra che però i conti vadano così bene sulla T-Link. Ma detto ciò, ci sono 1400 dipendenti. Voi vorreste, se ho ben capito, sviluppare l'auto elettrica, e lei è andato recentemente in India, negli stabilimenti della Reva, quella che produrrà la Sunny Car. Di che soldi avrete bisogno? Perché non penso riuscite a mettere tutti quanti voi. Per esempio, il governo ha detto, cioè, ci sono 400 milioni pubblici per salvare l'occupazione lì. Allora, vediamo di dividere il progetto in tre componenti. C'è una componente di produzione di auto elettriche, e le tecnologie REVA hanno consentito oggi a General Motors di avere un'auto elettrica che era un'auto globale, si chiama Spark, e questo è il primo progetto che occuperebbe una parte degli attuali dipendenti in Termini Imerese qualora venissero lasciati liberi da Fiat. Il secondo progetto è un sistema di alimentazione delle auto a energia solare, visto che la Sicilia è la prima area d'Europa per ore di sole disponibili in un anno, e su un modello che sta sviluppando in giro per il mondo. Cito un caso su tutti: la Better Place, che è una società californiana guidata da un israeliano, che sta raccolto già 500 milioni di euro in questi 2 anni per fare nel mondo una rete di alimentazione di auto elettriche. Perché oggi l'ansia per l'auto elettrica non è tanto quanto il motore duri, ma è dove si trova la ricarica lungo le strade. In Sicilia sarebbe il primo luogo in termini di numero di abitanti e di superficie coperto da una rete di alimentazione di auto elettriche a energia solare. La terza società è quella che poi fisicamente comprerà e costruirà le stazioni di ricarica, e quindi sarà un'infrastruttura permanente nell'isola. Quindi il progetto tra produzione di auto, produzione di sistemi di monitoraggio, di gestione e costruzione delle vere e proprie stazioni di ricarica, e proprietà delle stazioni di ricarica, investirà, secondo noi, tra un'occupazione diretta e indiretta, circa 5.000 persone. In Termini Imerese pensiamo che tra occupati attori Fiat, occupati dell'indotto, tra produzione di auto e produzione di sistemi di ricarica si possa più che recuperare quell'occupazione. E poi l'indotto sarà tutta la rete di alimentazione, si stimano 2.000 stazioni di ricarica in Sicilia. Ho capito benissimo, lei dice, insomma, visto il clima della Sicilia, quello è il posto dove sviluppare l'auto elettrica da un lato e l'auto a energia solare dall'altro. Mi dice quanto ci costerà questa cosa? Perché voi avrete bisogno se ho ben capito, 150 milioni messi da privati, e il fondo di private equity questo fa, raccoglie soldi per operazioni. Esatto, e ne mette una parte propria. E la parte che metteremo noi, inteso come Stato? Ma no, noi come Stato non è che mettiamo nulla di diverso da quello che oggi è previsto dai vari fondi per ricerca e innovazione, previsti dalla Comunità Europea innanzitutto, e fatti propri dai singoli Stati. La Sicilia è in zona obiettiva 2, per ogni progetto di ricerca e di sviluppo, per formazione, impiantistica e altro, sono previsti dei contributi o in termini di controcapitale o in termini di finanziamenti agevolati che chiunque può accedere. Se lei crea 2000 posti di lavoro in un territorio obiettivo 2 in Europa, le leggi europee danno dei sostegni. Quindi non è noi come Stato, ma noi come Comunità Europea. Ultima domanda. Lì in Sicilia l'esperienza più bella e positiva che abbiamo raccontato in questi anni, lo dico senza nessun giudizio, ma oggettivamente, è quella della ST Microelectronics a Catania, tra l'altro che si è arricchita anche di questo accordo che abbiamo già raccontato con Enel e Sharp per produrre pannelli fotovoltaici lì. Domani avremo anche un'intervista con uno di ST Microelectronics perché ci sono i conti. Quell'esperienza ha un nome, Pasquale Pistorio. Sarà della partita anche l'ex numero uno di Stima? Io me lo auguro. Io ho avuto modo di incontrare l'ingegner Pistorio, che peraltro ho la fortuna di avere socio in una nostra partecipata che si occupa di anche di sistemi di monitoraggio, sistemi di metering, si chiama Accent. L'ingegner Pistorio si è riservato di aderire formalmente al progetto in quanto consigliere Fiat. Quindi è entusiasta come siciliano del fatto che si possa fare una cosa così rivoluzionaria e innovativa in Sicilia. Sul piano personale si è riservato qualche giorno, perché proprio ieri c'era un consiglio Fiat di cui lui fa parte, avrebbe chiesto lumi agli altri consiglieri meno se questo eventuale rapporto di collaborazione o meno, o semplice di vicinanza progetto, sia in conflitto o meno. Nei prossimi giorni ci dovremo rivedere. Ad oggi non posso confermarlo, ho soltanto incontrato, spiegato il progetto. Lui, ripeto, a titolo personale è entusiasta anche per il suo passato in ST, e mi auguro che possa essere della partita. Allora, noi ci risentiremo dopo il 28-29, quando avrete incontrato il ministro con la proposta più dettagliata, vedremo anche che sviluppo. Intanto in bocca al lupo, perché noi crediamo a qualunque iniziativa che poi mantenga l'occupazione e rilanci anche il territorio. In bocca al lupo a Simone Cimino, appunto presidente e fondatore del fondo CAPE. Buonasera. Allora, puntata lunga, più lunga del solito sembrerebbe. Volete sentire di nuovo cosa ha detto Michael O'Leary, di numero uno di Ryanair, del presidente dell'ENAC, l'ente, l'autorità per il volo in Italia, Vito Riggio? Vabbè, rubiamo 30 secondi a Giuseppe Cruciani, ascoltiamolo, perché qui partirà forse una querela, sentiamo. We would like to develop a good working relationship with ENAC. We will be Italy's largest airline this year. Vorremmo avere buoni rapporti di lavoro con l'ENAC. Quest'anno diventeremo la prima compagnia aerea in Italia e credo che sia giunto il momento che l'ENAC la finisca con questo comportamento sciocco di inventarsi delle ordinanze con lo scopo di osteggiare Ryanair. L'incontro che abbiamo avuto con ENAC è stato positivo. Noi abbiamo fatto un passo avanti, ENAC ha fatto un passo avanti e questa è la strada giusta. Però i commenti stupidi da parte di Riggio a gennaio, secondo i quali Ryanair voleva chiudere le rotte domestiche perché in perdita, penso siano commenti idioti. Le rotte domestiche in Italia non ci hanno mai fatto perdere denaro e una volta risolta la vicenda dei documenti non ci sono state più difficoltà. Mi piacerebbe che qualcuno chiedesse al signor Riggio spiegazioni su quanto ha detto su Ryanair e sulla volontà di chiudere le rotte nazionali. Penso che Riggio sia un idiota. In Italia, è triste dirlo, al vertice dei sistemi burocratici vengono messi degli idioti. So I think Riggio is an idiot, but you know, in Italy, sadly, at the top of these bureaucracies, you seem to, that's where you put the idiots. E Riggio rispose, lo ha fatto poco fa il presidente dell'ENAC Vito Riggio. O'Leary non merita risposta secca e lapidaria, e con questo si conclude il programma. Da Sebastiano Barisoni un augurio di buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.